siamo un gruppo di ricercatori e di militanti, di attivisti sociali che da un anno ormai a questa parte si è riunito all'interno di questo progetto che abbiamo chiamato il Cantiere delle Idee, sulla base diciamo di determinati assunti, il primo dei quali è capire appunto come mai la sinistra o parte diciamo delle forze della sinistra negli ultimi 10-15 anni non avevano più la connessione, chiamiamo anche sentimentale, ma soprattutto anche politica e sociale, con i settori popolari della società italiana. E poi soprattutto l'altra diciamo questione era capire cosa pensava veramente i settori popolari della società italiana, dove sta andando il popolo, cosa pensa, quali sono le loro concezioni della politica, le percezioni della vita quotidiana. Insomma, queste diciamo le nostre due principali assunzioni da cui siamo partiti. La ricerca appunto sulla base di questi assunti era su due o tre assi tematici. La prima era sulla condizione insomma sociale e sulle aspettative delle classi popolari. L'idea era di andare a visitare i quartieri periferici di grandi e medie città italiane dal nord al sud, quindi abbiamo letteralmente battuto in questi mesi quattro città: Milano, Firenze, Roma, Cosenza. Abbiamo fatto diversi focus group e delle interviste in profondità con una cinquantina di persone, e diciamo le due cose principali su cui eravamo interessati erano le condizioni sociali e le aspettative, cioè sostanzialmente come queste persone vivevano la vita di quartiere, vivevano la loro vita lavorativa, se avevano appunto un lavoro, in che modo poi si relazionavano agli altri, in che modo anche vivevano nell'Italia di oggi post crisi, e quali erano le loro aspettative. Poi ovviamente, siccome il nostro interesse è anche di natura politica, la seconda asse tematico, che è appunto centrale nella ricerca, è il loro rapporto con la politica, cioè sostanzialmente che cosa pensano queste persone, questi settori della politica, in particolare della politica italiana, quali sono diciamo considerati i nemici o diciamo le aspettative politiche su cui fare affidamento. Da un lato, una delle cose che emerge è una cosa che certificate, cioè la crisi dei corpi intermedi, siano essi partiti ma anche sindacati. Esattamente, se diciamo che questo è il dato più sorprendente, il fatto che nonostante ci sia una certa esigenza di politica nel senso di politica intesa come servizi pubblici, servizi sociali, che sono sentiti come assenti, diciamo questo c'è un grandissimo problema di mancanza di essere coinvolti in progetti più grandi, molti dei cittadini si sentono proprio soli nelle periferie, senza appunto un adeguato sistema sanitario, senza trasporti che li collegano al centro città, senza insomma di varie tematiche che colpiscono la vita di tutti i giorni. E su questa l'assenza principale è l'assenza di una politica che metta al centro questi cittadini nei loro piani, nei progetti politici. Da un lato quindi c'è questa esigenza di politica, però ovviamente è molto forte il senso però di rabbia nei confronti della classe politica attuale, questa da destra a sinistra, in particolare ovviamente però nei confronti della classe politica di sinistra. Quindi c'è un grande senso non solo di diffidenza ma anche di rabbia, di disillusione. Insomma, molti degli intervistati che abbiamo sentito ci parlavano proprio: sì, eravamo di sinistra ma adesso non abbiamo più alcuna fiducia in questa classe politica, quindi o non andiamo a votare oppure votiamo partiti che mai avremmo voluto votare. E questo diciamo è il senso principale. C'è una voglia non tanto di politica dal basso, e questo è anche il dato interessante, ma di politica fatta da, come se fosse un servizio a cui appunto il cittadino insomma deve usufruire, fatta appunto da partiti che in qualche modo diano una soluzione a problemi concreti. Questo rispetto anche a 10 anni fa per noi è un dato molto importante, perché appunto 10-15 anni fa, quando c'era appunto una stagione anche di movimenti sociali molto forte, le percezioni dei cittadini era sì di fare una politica, c'era critica nei confronti delle istituzioni, ma c'era anche voglia di impegnarsi in prima persona. Diciamo questo dato della mancanza di coinvolgimento in prima persona nelle organizzazioni politiche e sociali è un dato molto inquietante, pone un po' la luce anche diciamo una crisi dei corpi intermedi, il fatto che comunque i cittadini da un lato non si sentono in voglia di prendere parte in queste associazioni, in queste organizzazioni, dall'altro c'è un senso generalizzato di sfiducia nei confronti di queste organizzazioni, però con il panere di una voglia di pubblico. Alcuni hanno proprio detto: sì, noi ci sentiamo soli perché appunto né lo Stato né le istituzioni pubbliche magari locali sono qua a darci una mano per la questione della casa, dei trasporti, della sanità. Molti ci dicevano: non arriviamo a fine mese perché abbiamo un affitto che ormai non è più affrontabile, cari a casa che devo prenderne cura perché non posso pagare assistenza sociale, servizi sanitari. Questi sono i dati, diciamo, principali. E poi emerge come questione principale il dato del lavoro, ovvero della sua mancanza o della precarizzazione. Questo è proprio il dato che tutti gli intervistati, da quelli che magari avevano figli che si sono affacciati adesso nel mondo del lavoro, a chi magari aveva un genitore che ha perso il lavoro, è stato il dato più diffuso nelle percezioni e nelle difficoltà dei cittadini. Questo può anche essere un dato, tra virgolette, abbastanza evidente, nel senso che dopo 10 anni di crisi e di politiche di austerità è chiaro che il lavoro, con quei livelli di disoccupazione che abbiamo, è il problema principale. Il dato preoccupante, e si collega appunto alla mancanza e alla crisi dei corpi intermedi, è che non c'è però l'idea che il problema del lavoro sia di fatto un problema sociale, cioè un problema risolvibile attraverso, diciamo, la lotta anche politica in prima persona. Si tende, insomma, a privatizzare, a rendere una cosa individuale il lavoro. È un mio problema, non riesco ad arrivare a fine mese, dovrei magari fare altre cose, però non ce la faccio, le cose mi scivolano addosso, magari è colpa mia, e quindi non riescono, molti intervistati proprio in maniera chiara ci hanno fatto capire che non sembra che non ci sia consapevolezza tra la dimensione del lavoro e la dimensione della politica. Questo è un dato per noi sconfortante, perché in qualche modo ci dice che c'è ancora molta strada da fare per ricostruire appunto quelle organizzazioni dal basso, riescano in qualche modo appunto a contrastare queste tematiche, per appunto trasformare lo stato di cose presente, in particolare la questione del lavoro. Oltre alla parte, diciamo, di studio, di ricerca che avete effettuato, poi tu raccontavi, insomma, anche qual è un po' la finalità, e mi ha colpito in un vostro documento il 10° punto, che individua alcuni concetti chiave che sono semplicità, concretezza, radicalità e credibilità. Perché? Innanzitutto perché, appunto, come fra l'altro anche le interviste hanno evidenziato, una delle principali difficoltà e percezioni di questi cittadini e persone che stanno avendo situazioni di difficoltà e di disagio sociale è proprio la mancanza di credibilità della classe politica attuale, in particolare delle forze a sinistra, e associata a una anche ormai più decennale incapacità di portare avanti soluzioni politiche radicali. A molti cittadini la connessione tra politiche economiche Europa è stata una delle connessioni più evidenti nelle interviste. Non c'è sostanzialmente più fiducia tra i cittadini, e quindi l'idea è quella di provare a fare un discorso differente, impostando su questi 3-4 semplici concetti, che in qualche modo riescano a creare un discorso differente, alternativo, impostato anche su, diciamo, persone che in qualche modo non siano identificabili con le vecchie classi politiche, con le vecchie forze, con la vecchia idea logica che un po' in questi anni si è affermata anche a sinistra, insomma, di doversi comunque presentare come credibili, ma di fronte a chi? Credibili di fronte ai cittadini, credibili di fronte, diciamo, a soggetti o istituzioni sovranazionali che non hanno alcuna rappresentanza. Questo, insomma, è un discorso che viene fuori in maniera più potente da questa situazione sociale di disagio, e che noi, come, diciamo, gruppo di ricercatori e militanti, volevamo veicolare attraverso queste iniziative politiche e culturali. Insomma, c'è un discorso altro, una pratica altra che si può iniziare, però in connessione con gli altri cittadini.